Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti. Il benessere gira su due ruote. Abbiamo pensato di intitolare così la puntata di oggi. Passeggiando in bicicletta tanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia di brillo. Per recarsi al lavoro, per muoversi in città, per mantenersi in forma, ma anche per ritrovare il proprio tempo, il proprio ritmo. Non più solo uno sport o un passatempo per gite fuori porta, ma una nuova filosofia di vita. Da macchinetta un po' desueta, la bicicletta diventa strumento di liberazione del pensiero. Mezzo di locomozione fisico, certo, la bicicletta è soprattutto un mezzo di locomozione della coscienza. E il principio ciclosofico fondamentale è: ogni corpo su una bicicletta assiste a uno spostamento del proprio sguardo sul mondo. All'esterno ci si sposta in bicicletta, ma all'interno è la bicicletta che ci sposta. Così scrive Didier Tronchet, come a dire che salire sul sellino ci porta a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Guardate il suo profilo slanciato, elegante, essenziale. La sua linea perfetta, rigorosa come un teorema di Euclide. Semplice e al tempo stesso capricciosa come la crepa incisa dal fulmine nello specchio azzurro di un cielo sereno. Guardate la forma del manubrio, ricurvo come le antenne di un insetto, e quelle due ruote che tanto ricordano il famoso cerchio tracciato con un solo tratto di carboncino su una pietra da un piccolo pecoraio di nome Giotto. Che cosa significherebbe la bicicletta se fosse un geroglifico scolpito in un obelisco egizio? Esprimerebbe il movimento o il riposo? Il fuggire del tempo o l'eternità? Non mi stupirei se significasse amore. Curzio Malaparte, allora, proviamo a girare la sua domanda a voi. Che cosa significa per voi la bicicletta? Provate a completare la frase. La bici è 800 24 00 24. Vi aspetto, ma qua in studio con me c'è il dottor Stefano Aglieri, responsabile della riabilitazione cardiorespiratoria dell'Istituto Humanitas di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Ciclista medico o medico ciclista? Ma diciamo 50-50, così non facciamo torto a nessuno. La bici è, dottor Aglieri, amica del cuore. Sì, sì, sì. È proprio vero, perché la bici è utilizzata per fare attività, per far fare attività fisica a chi ha subito una patologia, una malattia cardiaca, e sono anni che io mi occupo di questo, per cui è un argomento che credo di poter sviscerare abbastanza approfonditamente. Infatti la bici, il cicloergometro, comunque il pedalare è uno dei sistemi migliori per riabilitare il cardiopatico. E mantenere comunque anche il cuore sano. Assolutamente, quindi parliamo anche in prevenzione primaria della efficacia della pedalata, dell'usare la bicicletta. Lei naturalmente sì. Ha anticipato subito il cuore che va riabilitato, perché se fa bene a un cuore riabilitare è assolutamente efficace anche per mantenere il nostro sistema cardiocircolatorio efficiente. Assolutamente, perché noi manteniamo allenato il sistema cardiovascolare facendo lavorare tutta la muscolatura degli arti inferiori, ma non sono solo quelli che vengono impegnati quando si pedala. E poi ci sono tutta una serie anche di altri aspetti che penso affronteremo. Pedalare e camminare, dottor Aglieri, due attività a confronto, i famosi 5.000 passi al giorno. Noi abbiamo per una settimana invitato gli ascoltatori a mettersi un contapassi, a misurare quanti passi facevano nella giornata. Naturalmente non occorre farli tutti di filato, ma abbiamo detto almeno 5.000 passi. Lei è molto di parte, perché lei è un ciclista super appassionato, per cui invito i nostri ascoltatori a confrontarsi con un medico ciclista, e quindi può dare tantissime indicazioni non solo per la salute, ma proprio per usare anche la bicicletta in modo sano. Ci sono spesso dei problemi, articolazioni eccetera, ma io vorrei ritornare con lei. 5.000 passi avranno una traduzione in pedalate? Ma sì, devo dire che l'una cosa non esclude l'altra e viceversa, quindi sicuramente il pedalare per qualche chilometro al giorno senza la necessità di fare gare, di fare cose speciali, ma semplicemente il pedalare per 10-15 chilometri al giorno, possiamo considerarlo un equivalente dei 5.000 passi di cui si parlava. 800 24 0024 per il dottor Aglieri, ciclista e medico appassionato, quindi siamo qui, la bicicletta è amica del cuore e amica anche della nostra forma. Assolutamente sì. La mia bicicletta procedeva imperterrita, salda, forte, non subiva forature. La catena rimaneva sempre ben ferma al suo posto. I raggi nelle cadute non si rompevano. Il manubrio non si piegava di un millimetro. Una vera meraviglia. Ripresi da solo il mio viaggio. E ogni tanto le parlavo, alla bicicletta, carezzandole la canna come se fosse la criniera di un cavallo. È un giovane camilleri, appena 17enne, il ragazzo che parla e accarezza la sua bici mentre percorre la strada tra Serra di Falco, dove era sfollato, e Porto Empedocle, in cerca del padre. Quella bici, imprestata da un amico, Calogero Montante, è entrata nella storia e nella letteratura ed è diventata un simbolo. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Antonella Nigro, amministratore delegato dell'azienda Montante. Buongiorno! Buongiorno a voi, buongiorno. Dottoressa Nigro, la bici è? Noi abbiamo sentito questo breve estratto dal racconto di Camilleri, che narra proprio una storia di amicizia, di coraggio e di amore. Ce la vuole raccontare per bene? Sì, proverò a raccontarvela per bene con le mie parole. Ovviamente mi sostituisco al professor Camilleri, quindi spero di dargli il giusto onore. Nel senso che questa storia racconta un periodo particolare per l'Italia, siamo ai tempi della guerra, della seconda guerra mondiale, dove il professor Camilleri era sfollato insieme alla famiglia proprio a Serra di Falco, nella casa che fu di Calogero Montante. E una volta arrivati gli americani, quindi dopo lo sbarco in Sicilia degli americani, e quindi si capiva che ormai la libertà era alle porte, e il pensiero del professor Camilleri andò subito al padre, che era rimasto in realtà a Porto Empedocle, e quindi trova questa bicicletta Montante, la inforca e comincia, come lui stesso afferma, una corsa verso la libertà, in sella a questa bicicletta che non lo tradì mai, non forò mai un raggio, mai una ruota, si bucò, una vera e propria corsa forsennata. Tant'è che lui stesso, con le sue parole, esprime questa corsa proprio come un simbolo di corsa verso la libertà, proprio perché era finita la guerra e quindi iniziava un nuovo periodo per la Sicilia e per l'Italia tutta. E quindi la bicicletta Montante è diventata proprio sinonimo di libertà, ma anche di legalità. Anche di legalità, sì, perché poi in realtà a distanza ovviamente di quasi 70 anni abbiamo omaggiato un esemplare riprodotto dalla originale Kalos che accompagnò il professor Camilleri in questo viaggio verso la libertà al Presidente della Repubblica proprio in occasione del 25 aprile. E proprio il Presidente della Repubblica la ribattezza la bici della libertà e della legalità. Quindi, dottoressa Nigro, lei che è amministratore delegato della Montante, chiedendo a lei di completare la frase, la bici è? La bici è la libertà e la legalità. Andiamo da Beniamino, da Bolzano. Buongiorno, 800 24 0024, benvenuto. Buongiorno, io sono Beniamino da Bolzano. Sì. E ho una passione, diciamo, per la bicicletta. Ho la fortuna di abitare a circa 300 metri di quota sopra la città di Bolzano. Sì. E quindi a volte quando vado a lavorare in città, se posso, ci vado in bicicletta e questo secondo me mi aiuta a mantenermi attivo, a tonificare un po' il mio corpo, il mio cuore. Ma la bicicletta è per me una storia abbastanza lunga, nel senso che ho fatto diversi giri in Europa, in Baviera, lungo il Danubio, e devo dire che pedalare giornate intere alla velocità della bicicletta, che è abbastanza veloce per poter coprire grandi distanze, però abbastanza lenta per potersi dedicare un po' a se stessi, alla riflessione, a pensieri vari che normalmente nella vita frenetica non si riescono ad approfondire. Quindi arrivi alla sera distrutto, montato la tendina praticamente in ginocchio, e però la serenità che ho riportato, certo, a casa dopo giorni di pedalate, dopo 2-3 giorni, mica ho fatto chissà quanti, per dire, giorni, no? Però torni a casa e sei un'altra nuovo. Persona, veramente una Beniamino, cosa posso chiedere a lei, anche agli ascoltatori che vorranno intervenire, anche di scriverci queste impressioni, di completare la nostra frase, la BCE, sul nostro profilo Facebook. Potete seguirci anche su Twitter. Grazie Beniamino. Tra l'altro, dottor Aglieri, Beniamino abita sopra Bolzano, salite, discese, è un bel allenamento. Ah, sì, è una persona fortunata ed entusiasta anche da quello che ho sentito dire. Certo, se vivessimo, se trasferissimo tutto questo in una grande città, forse qualche problemino ci potrebbe essere. Abbiamo Maurizio che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a voi. La bici è? Me lo dica lei. La bici è, come dicevo prima, anche lavoro. Mi spiego meglio. Io sono una guida cicloturistica e proponiamo attività ricreative sia per grandi che per piccoli, e vista dal lato mio è lavoro. Ovviamente è un lavoro un po' particolare, perché devi offrire un servizio che sia in armonia, certo, con ciò che le persone vogliono, specialmente nei ragazzini, dove la bici, vista con gli occhi loro, deve essere anche un vettore per trasportare comportamenti, cioè comportamenti corretti nei confronti di se stessi, verso gli altri. Perché poi un domani questi ci saranno il motorino, certo, che ha le stesse regole, la bici. Quindi in bicicletta si cresce. Grazie Maurizio. La bici, dottoressa Nigro, piace conquista. Per la prima volta dal dopoguerra, nel 2011, le vendite di biciclette in Italia hanno superato quelle delle automobili. Forse la crisi ci ha messo lo zampino, la bici è assolutamente risparmiosa, ma penso, dottoressa, sia anche un segno di una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente e anche un desiderio, a proposito della bici montante, di libertà. Assolutamente sì, questo è un dato storico, è veramente la prima volta dopo tanti anni, dopo tantissimi anni, che le vendite delle bici superano quelle delle auto. E, oltre, diciamo, alla crisi economica, ci ha messo lo zambino anche una crisi ambientale. Infatti diciamo che a causa di questi due elementi, che naturalmente influiscono tantissimo su quello che è il nuovo modo di vedere la produzione di beni e servizi, di muoversi all'interno delle città o nei percorsi extraurbani, la vecchia bicicletta ritorna ad essere un mezzo assolutamente moderno. E da un lato perché, diciamo, garantisce l'ambiente per ovvie ragioni, dall'altro lato proprio perché i costi di gestione di una bicicletta sono assolutamente quasi inesistenti rispetto, poi se pensiamo poi a un'automobile, diciamo, non c'è gara, dottoressa Nigro. Dottor Aglieri, la bici, mi stanno arrivando dei messaggi bellissimi. Mariella mi scrive: la bici è come una farfalla. Lorenzo da Padova: la bici è una filosofia di vita. La bicicletta, scrive Emilio, è piacevole fatica. Un ascoltatore mi scrive: è in garage nuova, tanta buona volontà, ma poi mi annoia. Ma, dottor Aglieri, molti appendono il volante al chiodo e sostituiscono prendono la bici proprio per spostarsi in città. Ci sono sempre più persone che scelgono le due ruote per muoversi, è una scelta anche in questo caso di libertà, permette di percorrere le strade meno trafficate, ma credo anche di riappropriarsi della città, della strada. Cosa che la macchina invece impedisce di fare. Dottor Aglieri, però la città è complicata, soprattutto le grandi città, per i ciclisti. Credo che sia una cosa assolutamente da invogliare, da incitare. Certo, la città è complicata, la città presenta una serie di ostacoli che non sono soltanto il traffico delle quattro ruote, delle due ruote motorizzate, pericolosissimo purtroppo, ma qui vorrei aprire una piccola parentesi, anche il ciclista può essere pericoloso. Sì. Purtroppo io, essendo un praticante di cicloturismo con bici da corsa, so, perché mi capita anche involontariamente, quando vado in giro con amici, di creare qualche problema a chi va in macchina. Quindi questi sono degli ostacoli. Ci sono anche altri ostacoli, le rotaie, marciapiedi, strade che improvvisamente cambiano la loro direzione senza... Quindi insomma, lavori in corso, gli ostacoli ci sono, però credo che la scelta di usare sempre di più la bicicletta anche in città sia una scelta assolutamente vincente. E noi abbiamo in linea con noi un vero ciclista urbano. In linea con noi abbiamo Luca Conti, autore di manuale di resistenza del ciclista urbano e di ciclo editore. Ciao Luca. Buongiorno. Benvenuto. Ciclista urbano per scelta, per passione, per tutte e due le cose? Per disperazione? Inizialmente per disperazione, perché era Vedi. Prego? No, ci ho preso, perché molti... Sì, beh, una combinazione di cause. Comunque diciamo che era una esigenza pratica di spostarmi più velocemente e più facilmente in città. Quella che mi ha spinto a tirare fuori una vecchia mountain bike e a rimetterla in strada. Da lì è nata una passione che negli anni poi, insomma, si è sviluppata. Sono aumentate anche le biciclette in casa fino a livelli parossistici, e anche un po' la possibilità di muoversi, di fare anche dei piccoli viaggi poi, oltre al viaggio urbano casa-lavoro. Luca, nel tuo libro, il tuo manuale è una sorta di vademecum per il ciclista. Allora, proviamo con te semplici regole di sicurezza, per riallacciarci a quello che diceva il dottor Aglieri, che come ciclista dice: io so che possiamo creare noi problemi agli automobilisti e agli automobilisti crearli a noi. Io ci sono anche dei ciclisti, ad esempio, che vanno sui marciapiedi. Io sono stata inforcata da una signora che era in bicicletta e ho ancora male alla schiena. Parlava al cellulare e mi ha praticamente fatto direttamente montare dalla sua bici, ma poi mi ha scrollato e niente, ed è fuggita via. Quindi ci sono degli incontri ravvicinati anche tra ciclisti e pedoni. Il rispetto delle regole assicurerebbe una buona convivenza. Senz'altro, anche perché poi le norme che riguardano la bicicletta sono regolate dal codice della strada. Quindi è semplice, è un veicolo a tutti gli effetti che può e deve andare per strada, e quindi ovviamente quando il ciclista si sente insicuro magari va sul marciapiede, però non dovrebbe farlo. Questa cosa tra l'altro è illegale, cioè è sanzionabile, e dovrebbe farlo in qualche caso quando ci sono proprio dei motivi per cui la strada veramente costituisce un pericolo, ma lo dovrebbe fare con molta accortezza, dovrebbe scendere teoricamente, anzi praticamente dovrebbe scendere dalla bicicletta, altrimenti dovrebbe andare per strada dove le regole purtroppo non sono rispettate dagli automobilisti, quindi il pericolo poi è costituito dagli altri veicoli, che sono molto più pericolosi della bicicletta. Diciamo che le norme di cautela e di abitudine aumentano la sicurezza, ossia se il ciclista riesce a spostarsi con una appunto stando sul lato destro della carreggiata, stando però anche attento agli sportelli delle auto in sosta, che sono un altro pericolo, e facendo spostamenti laterali graduali, questo è fondamentale, e acquisendo anche una sicurezza, perché poi io sento ripetutamente il discorso, cioè che bello che tu vai in bicicletta, ma come si fa a Roma? Io abito a Roma, ma insomma vale anche per Milano, per altre grandi città, come si fa? È pericoloso. Poi a Roma tra l'altro avete anche le salite, eh? Invece Milano è tutto piatto. Sì, noi abbiamo qualche salita. A proposito di allenante. Noi abbiamo salite, abbiamo i San Pietrini, ma sono salite lievi, diciamo che si fa tutto con l'abitudine, no? Poi ci sono tantissimi modelli di bici, ci sono i cambi, insomma uno può regolarsi il cambio, adesso addirittura quelle con il motore elettrico, insomma veramente... Insomma ci sono bici per tutte le esigenze. Luca, io devo dare la linea ai mercati, mi dai due regoline, due consigli per i ciclisti urbani, così magari senti anche la signora che mi ha inforcato? La signora che ha informato, beh, se uno deve andare sul marciapiede deve andarci a piedi, questo ecco. Senz'altro. Bisogna per il ciclista che viaggia per strada rendersi visibili di giorno e di notte. Sì. Ribadisco la gradualità degli spostamenti, perché questa viene molto importante per chi ci segue dietro anche con mezzi a motore. Sì. E poi stare molto attenti, questo si sviluppa una capacità quasi medianica, l'occhio e l'orecchio sono molto sviluppati quando si rischia e quindi... Ai ciclisti crescono le antenne. Un po' sì. Essere e benessere. Bicicletta, non andare più di fretta, senti il vento nelle ruote, vai con lei dove si può, continuando a pedalare e più non dimandare. Un ascoltatore anonimo mi ha mandato questa versi, questa rima, io ve la rileggo volentieri per reintrodurvi il tema di oggi e invitarvi a completare la frase. La BCE, 800 24 00 24, in studio con me il dottor Stefano Aglieri, un medico che è medico e fa il cardiologo, ma è soprattutto un appassionato di bici. E quindi, dottore, lei mette in conto anche qualche caduta, ne parlavamo con Luca Conti e... Sì, le mettiamo in conto, anche se naturalmente meno sono e meglio è, se si riesce a evitarle ovviamente tanto di guadagnato, anche perché teniamo presente una cosa. Il ciclista professionista che cade sa come cadere e in genere riesce a limitare i danni, non sempre ma nella maggior parte dei casi. Il dilettante, chi va a passeggio non è preparato e quindi bisogna essere molto attenti, perché una caduta può provocare conseguenze anche pesanti. Dottoressa Nigro, voi avete avuto un'idea? Sì, un'idea, noi abbiamo avuto un'idea che molto mi piace molto, perché è molto in linea con il benessere. Assolutamente, noi siamo partiti da un presupposto fondamentale, che è appunto la possibilità di pedalare all'insegna del piacere e della sicurezza, proprio perché per noi la sicurezza è un lusso. Quindi abbiamo pensato di omaggiare ai nostri clienti proprio che acquistano una bicicletta montante, per inclusa per un anno, l'assicurazione RC e infortunio gratuita. E questa, diciamo, è una vera e propria innovazione nel settore specifico delle biciclette, proprio perché è la prima volta che un'azienda produttrice di biciclette, proprio la Montante Cicli, e un'assicurazione si mettono insieme a tutela del ciclista. Mi piace, dottor Aglieri? Sì. È una bella iniziativa. Sottolineo che chi si iscrive a una società, anche da cicloamatore, è obbligato a fare un'assicurazione. Azione, certo. Per ovvi motivi, insomma. Dottor Aglieri, la bici è anche dolore, mi scrive un ascoltatore. Spesso. E su questo volevo tornare anch'io e naturalmente proporlo a lei, perché non è solo la caduta, no? Ma anche alcuni dolori, tensioni, dolore al polpaccio quando si pedala, alla gamba, crampi e dolori alla schiena. Certo, e al collo. Tutto questo è frutto di un allenamento forse non adeguato, e quindi, se volete essere informati, il dottor Aglieri vi darà qualche indicazione, ma forse è anche proprio un problema con la bicicletta. Sì, è giusto, ci sono due ordini di problematiche. La prima è che l'allenamento deve essere adeguato, perché altrimenti è facile che, se uno non è preparato e si mette a pedalare come un pazzo un giorno per 3 ore di seguito, quando scende dalla bici è a pezzi. È a pezzi, quindi... E quindi questo è evidente. L'altra cosa è che bisogna avere un mezzo che sia adeguato alle proprie caratteristiche sotto tutti i punti di vista, specialmente per quello che riguarda le misure. Ma non parliamo solo di bici da corsa, dove le misure sono assolutamente la regola. Non si acquista una bici da corsa così, o una mountain bike, senza avere delle misure adeguate a quelle che sono le proprie caratteristiche corporee. Ma anche per chi usa la bici, la city bike o la bicicletta da passeggio, è inevitabile che ci debbano essere misure di telaio, di altezza della sella, di regolazione della sella, che siano adeguate alle proprie caratteristiche. E dottoressa Nigro, voi dalla Montante siete chiamati, ho letto, i sarti della bicicletta, una definizione che mi è piaciuta molto, perché producete bici artigianali cucite proprio addosso, su misura al ciclista. Esatto, e, le nostre bici sono proprio delle bici ovviamente made in Italy, quindi una vera espressione del made in Italy, delle eccellenze italiane, come ha detto lei bene, cucite addosso sul cliente, quindi diciamo che al momento dell'acquisto noi richiediamo tutta una serie di parametri in modo da poterci calcolare le geometrie esatte che possano garantire una postura adeguata all'utilizzo della bici, in modo appunto da evitare il più possibile quei dolori a cui faceva riferimento il dottor Adieri, appunto. E le nostre bici sono tutte prodotte con lavorazione artigianale, sottoposti a dei severi controlli, e ovviamente poi noi abbiamo cercato di unire dei particolari unici, creando un connubio perfetto fra tradizione e tecnologia, quindi diciamo che anche nelle nostre classiche retro noi ricerchiamo la perfezione attraverso appunto la produzione di biciclette su misura. Dottoressa Nigro, mi saluti completando la frase: la bici è? La bici è l'oggetto dei tempi moderni. Grazie alla dottoressa Nigro, amministratore delegato della Montante. Buona giornata, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. La maggior parte dei miei libri sono nati nella mia mente pedalando. Quando i pensieri si ingorgano, quando la creatività si inceppa, non c'è niente di meglio che salire in sella. La fatica della salita, purtroppo vivo in alta collina, e la gioiosa libertà della discesa sono in grado di sbriciolare qualsiasi blocco creativo. La bicicletta ci dona la poesia facendoci volare, ma è anche poesia nella sua essenza strettamente fisica. Così scrive Susanna Tamaro nella Ode alla bicicletta: la bici è fonte di ispirazione. A proposito di ispirazione, ci lasciamo ispirare dai consigli di Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training, che anche oggi ci accompagna nel nostro appuntamento quotidiano. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Daniele, siamo pronti? La fronte è rilassata, l'ombelico si muove, perché dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto, che l'ombelico si muova, segno che stiamo respirando correttamente, la fronte è rilassata e quindi questo ci porta a pensare positivo e siamo quindi prontissimi per l'appuntamento di oggi. Daniele. Sì, farsi ispirare, possiamo utilizzare una frase, un brano, un passaggio di una lettura che è come una sorta di guida per le nostre giornate, per i nostri momenti, riportarsi sempre alla saggezza che ci viene comunque dispensata da letture, cose che possiamo attraversare con la mente, come dicevi tu, ferma attraverso un respiro fluido e continuo, un corpo rilassato. Oggi vorrei proporvi due frasi e un breve brano che possano ispirarci. Il tema del consiglio quotidiano è proprio farsi ispirare. Questi brani parlano di felicità, amore, libertà, dal punto di vista dello yoga. Ne sono autori due maestri della tradizione himalayana, Swami Rama e Swami Veda. Felicità. La felicità è una condizione della mente creata dalla convinzione che al mondo non vi sia nulla per cui valga la pena di preoccuparsi. Amore. L'amore è il più antico viaggiatore dell'universo. È l'amore che viaggia dallo sconosciuto al conosciuto, dall'eternità all'eternità. Libertà. La libertà è la capacità di scegliere l'infinito. Quando ci rendiamo conto di questa libertà, siamo liberi e la porta della prigione è spalancata. Ma noi siamo come quel cieco che era stato confinato in una stanza e gli era stato detto che c'era una porta per uscirne. Egli decise di camminare tutto intorno toccando i muri. A un certo punto sentì un prurito, si grattò e poi continuò a camminare. Camminò tutto intorno alla stanza ma non trovò mai l'uscita, perché ogni volta che arrivava vicino alla porta lo afferrava quel prurito e doveva grattarsi. La stessa cosa succede a noi. Abbiamo la libertà di sollevarci da tutto ciò che ci limita e ci rende finiti. Eppure quando arriviamo alla porta ci vengono quei pruriti e la saltiamo. Eppure la porta è spalancata. Ecco Nicoletta, di come entrare attraverso una porta spalancata si occupa proprio lo yoga. E domani, come consiglio finale, vorrei proporre a tutti una breve meditazione, una meditazione, chiamiamola così, via, portatile, che bene, riassuma tutto quello che ci siamo detti da lunedì a oggi. E Daniele Belloni sarà con noi qua in studio insieme a Susi Stefanini. Ti aspettiamo qua, Daniele, a domani. E intanto domani, noi, Nicoletta, ciao a tutti, grazie. Grazie, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ricordate, la BCE, chiamate e scrivete. Essere e benessere. Siamo ritornati insieme e in linea con noi abbiamo Andrea Vitali. Ciao Andrea. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico scrittore a cui ho chiesto di intervenire proprio per darci una sua lettura. Io, la BCE, come completiamo questa frase con te, Andrea? La bicicletta è una disgrazia. Bene, allora da qui partiamo, Andrea. Sì, se posso anche spiegarmi. Certo. Allora, ho scritto questo brevissimo testo proprio per non perdere le mie convinzioni sulla bicicletta. La bicicletta, per chi nasce senza averla inscritta nel proprio DNA, è una vera e propria disgrazia e può condurre a traumi inguaribili, metaforiche cadute dell'autostima che lasciano tracce indelebili. Ne sono io un veritiero testimone, poiché anch'io, allora giovanissimo, nutrii un desiderio quasi doloroso di possedere l'arnese infernale. E dopo averlo cavalcato in giri senza meta, affrontai con lei la mia prima e ultima avventura agonistica. Trattavasi di gara valevole per la qualificazione alle selezioni provinciali dei mitici giochi della gioventù. Giunsi al traguardo sfiatato, al limite dell'anossia, e forse con un principio di colpo di calore, dopo un serratissimo duello con un incapace mio pari. Giunsi ultimo e, contornato dalla confusione di genitori e parenti che avevano invaso il rettilineo conclusivo, convinti che gli arrivi si fossero esauriti. Da allora non desiderai altro che prendere la patente e schierarmi senza remore dalla parte degli automobilisti. Andrea, ho qua in studio un tuo collega che è assolutamente un ciclista appassionato, che è Stefano Aglieri, e che beveva il tuo racconto. Dottor Aglieri. Sì, beh, insomma, se posso consolare Andrea, un mio vecchio caro amico, grande campione del passato, Giambattista Baronchelli, ha usato un giorno, chiacchierando con me, la stessa definizione: l'attrezzo infernale. Quindi anche uno che ha vinto corse, che ha fatto giri d'Italia, che ha fatto professionista per anni, la pensa allo stesso modo. Evidentemente nel DNA lui era un po' differente. Cioè, scritte come? Certo. Sì, come posso commentare? A parte la bellezza della scrittura che evidentemente... Tra l'altro adesso, Andrea, il 29 esce il tuo prossimo libro, tra l'altro. Sì, Le tre minestre. Le tre minestre. Con sì. Mondadori. Esatto. E scusi, dottor Aglieri, l'ho interrotta. Sì, no, volevo dire, a parte la bellezza delle parole scritte da chi sa scrivere, sono d'accordo, ma naturalmente, essendo io uno che ha il DNA, ha scritto nel DNA il ciclismo, continuo ad andare in bicicletta. È una passione c'è forte. Poco da fare. Grazie ad Andrea Vitali. Ciao Andrea. Ciao, alla prossima. Un abbraccio. Giuseppe, ciao. Da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei. La bici è, Giuseppe, a Reggio Emilia, in bici ci andate, siete anche... Ho scoperto questa città da poco, è una città bellissima. Straordinaria. Straordinaria, vengo dalla collina, sono iniziato a lavorare da un anno a Reggio Emilia e ho scoperto la bicicletta. E la bici è conoscere i propri figli, conoscere e scoprire l'intimità dei figli, capire cosa gli frulla per la testa, perché... Il piacere di andare in bici qui a Reggio Emilia, la sicurezza di poter mandare un figlio a fare lo sport. Stasera un po' tardi lo vado a prendere dallo sport. Quindi Giuseppe, lei sottolinea un legame, la bici, proprio come occasione di relazione con i bambini. E lei mi dà un gancio straordinario, perché in linea con noi abbiamo Andrea Satta. Andrea, ciao! Buongiorno, ciao. Pediatra e voce di Tête de Bois, una band italiana di musica d'autore, folk rock, che è nata nel 92. Andrea, tu tra l'altro, anche siete tutti medici, come, eh? Andrea, tra l'altro, il nostro ascoltatore di Reggio Emilia ci dà il gancio per parlare anche di bambini. E c'è qualche cosa che tu ci volevi proprio raccontare a questo proposito? Ah sì, noi abbiamo scritto un disco tutto sulla bicicletta che si chiama Goodbike e abbiamo inventato questa cosa che si chiama palco pedali, dove con 128 biciclette, ognuno con la propria bicicletta, si viene, si pedala e si produce l'energia dello spettacolo, le luci, il suono, le immagini, tutto funziona a pedali. La dinamo della bicicletta praticamente produce l'energia per una grande piazza piena di gente. E prima dello spettacolo noi facciamo una cosa che si chiama via le rotelle, cioè con magari un personaggio del ciclismo, un personaggio che ama la bicicletta, il papà, le mamme, 20 o 30 bambini vengono con le loro biciclettine, con le rotelline con cui hanno giocato fino a quel giorno e provano a lanciarsi nell'equilibrio delle due ruote vere, che è un po' un camminare la seconda volta. Si vola. La scoperta del mondo, ecco. E in effetti, come c'è nella Oda della bicicletta di Susanna Tamaro, racconta proprio che a un certo punto inizi a camminare, poi corri, poi quando vai in bicicletta ti sembra di volare. E quindi è un po' una occasione per diventare grandi, per crescere. Io vorrei far sentire, Andrea, in chiusura, un breve cenno di Alfonsina e la bici. Dannata, disperata. È contenuta nell'album Goodbye, che è la storia di Alfonsina Morini, che ha dedicato la vita dai 10 ai 68 anni alla sua bicicletta. È una storia bellissima che io, Andrea, noi non abbiamo tempo di raccontarla, ma sul vostro sito c'è. Sì, c'è tutto. È una ragazza emiliana di Castelfranco, vicino a Modena. Possiamo. Che ha fatto il Giro d'Italia. Nel 24 fece un Giro d'Italia con i maschi, con gli uomini, immaginati in 24. Siamo nel 1924. Andrea, grazie per essere stato con noi. Ricordo, ciao. buona giornata al dottor Aglieri. Noi torniamo domani. La bici è? Essere e benessere.